guerra, il loro unico canto, non seguire mai quel dire che di luce mai si muore. Ti diranno, rinnega te stesso, ma tu non lasciare mai il tuo cuore in un pozzo. Ci sarò per te sempre, mio amore, e nessuno ti potrà fare del male. Uccideranno anche l'aria che respiri, ma tu sii forte come i pesci del mare. Che il domani appartiene solo a chi crede nel passato, il futuro è presente, e tu il seme. Ti diranno, facciamo un compromesso, tu devi dirgli scusa proprio non posso. Buttare al vento la mia innocenza, la mia anima vale di più di ogni vostra indecenza. Ti diranno, siamo già tutti persi, ma tu non credere a chi blatera versi, non lasciarti prendere dal panico che chi ama non è mai in bilico, non lasciarti prendere dall'ira. I tuoi occhi sono la mia schiena, chi disprezza è già condannato a perire per il suo operato. Uccideranno anche l'aria che respiri, ma tu sii forte come i pesci del mare. Domani appartiene solo a chi crede nel passato, il futuro è presente, e tu il seme.